Sì, di elezioni, perché dopo tutto andremo a votare il 21 aprile, senza pregiudicare il weekend di Pasqua né quello del 1° maggio e soprattutto senza disturbare la resistenza che, come giustamente ha detto, non ricordo più chi appartiene a tutti gli italiani, visto che ormai siamo tutti democratici, tutti antifascisti, a partire da quell'onorevole Fini che non si sognerebbe mai di far notare che la data del 21 aprile segna una vecchia ricorrenza cara ai suoi maggiori in camicia nera, anche se ormai un po' sbiadita nell'immaginario nazionale, quella del Natale di Roma. E visto anche che a sinistra il problema proprio non si pone, perché non di resistere si tratterà, come ci dicono ormai tutti, quanto di desistere, di applicare quegli accordi di cui tu non ti presenti e là non mi presento io, senza i quali, a quanto pare, il fronte progressista con la legge elettorale che ci troviamo non riuscirà mai a portare all'incasso quella minima maggioranza che i sondaggi gli attribuiscono. Sarò. A me vi confesso, questa storia della desistenza non va proprio giù. E non perché abbia paura di non trovare sulla scheda qualche simbolo a cui tenga particolarmente e di essere costretto a votare, che so, per un leghista o Dione Scampi per un seguace dell'onorevole Segni, che non mi sembra che riusciamo neanche stavolta a togliercelo dai piedi. E so anch'io che in politica possono capitare degli strani compagni di giochi, ma il fatto è che quello che fino a ieri si presentava come un mero espediente tecnico, come uno strumento ingegnoso per venire a capo di una legge iniqua, della cui iniquità siamo tutti convinti, senza peraltro che questa convenzione abbia determinato una qualsiasi tentativo di modificarla, e questo espediente tecnico sta necessariamente assumendo, a 3 giorni dallo scioglimento delle Camere, un tutt'altro aspetto. Scopriamo che quegli accordi comprendono delle ovvie condizioni politiche, che si presuppongono degli impegni, che l'accordo è tecnico, sì, ma patto che tacciano certe polemiche, che spariscano certi simboli, che non ci siano certi candidati. È difficile sfuggire al sospetto che si vada a una specie di precomposizione burocratica delle tante contraddizioni, delle tante peculiarità che dividono la nostra sinistra. E questo proprio non è una bella cosa, Non è una bella cosa, non tanto per quel po' di mercantile che l'operazione suggerisce, perché in fondo la sostanza di un accordo di desistenza è uno scambio di elettori, non necessariamente consenzienti, ma perché essa sottintende un giudizio di fondo abbastanza meschino sul nostro comune patrimonio ideologico, che a sinistra siamo divisi, frammentati, non esattamente omogenei è un dato di fatto, ma non è detto che dobbiamo vedervi soltanto una debolezza da sanare in via organizzativa. Se vedendo le cose con un'altra ottica, con un po' di buona volontà, potremmo vedervi persino una forma di ricchezza, la capacità di non appiattirci tutti sugli stessi assunti e di mantenere vivo un confronto e una ricerca di soluzioni che siano capaci di reggere appunto la prova del confronto, la ricerca di un'omogeneità a tutti i costi, possibilmente garantita da un capo con pieni poteri e da una struttura gerarchica adeguata, ma è meglio lasciarla agli altri. Non a caso Berlusconi ha già dichiarato che il prossimo scontro sarà essenzialmente un referendum per lui o contro di lui. Che ci volete fare? Lui ragiona così, ma noi no. Noi non andiamo a un referendum pro contro Berlusconi, neanche pro contro Fini o D'Alema, Bertinotti, Casini o chiunque altro. Noi andiamo ad eleggere un Parlamento in cui dovrebbero essere rappresentate le forze, le idee, le tendenze in cui si sostanzia il dibattito politico di questo Paese. E se è vero che una rappresentanza implica sempre una certa semplificazione delle opzioni possibili, una loro ragionevole selezione, è anche vero che c'è selezione e selezione. C'è quella che nasce dalla logica del dibattito politico e quella imposta in via preliminare a suon di normativa. Lo scontro è lo scontro e ha le sue regole, ma se le regole cominciano con escludere qualcuno a priori, a che razza di scontro pensate di andare?